La convenzione di riferimento è la convenzione di Amburgo, la cosiddetta convenzione SAR, che regola il soccorso, la ricerca e il soccorso in mare. Questa convenzione divide tutte le acque del Mediterraneo in zone di competenza dei diversi stati. L'episodio in questione è avvenuto, da quello che risulta, nella zona di competenza della Libia. La convenzione stessa però prevede che quando uno Stato, come nel caso della Libia, o non sia in grado di apprestare i soccorsi o non abbia la volontà di farlo, come in molti casi avviene ad esempio per Malta, a questo punto gli altri Stati confinanti abbiano il dovere giuridico di assumere il coordinamento dei soccorsi. Ecco, quindi quando si dice l'Italia non aveva competenza perché siamo al di fuori della zona SAR italiana, questo non è vero, perché la normativa internazionale appunto prevede un ruolo in un certo modo di supplenza dei paesi adiacenti. E quindi dal momento che l'allarme era stato lanciato ed era stato comunicato sia al centro di coordinamento libico ma anche a quello maltese e a quello italiano, e visto che Malta e Libia purtroppo ormai sappiamo da anni non intervengono in queste situazioni, il dovere giuridico spettava all'Italia. E quindi è davvero una ricostruzione volutamente falsa quella di dire noi non c'entravamo perché non era nelle nostre zone di competenza. Tra l'altro anche sulla cosiddetta zona SAR libica, insomma, è un tema molto controverso, no, in questi anni. Assolutamente, infatti forse sarebbe ancora più corretto dire la cosiddetta zona SAR libica, nel senso che la Libia ha unilateralmente dichiarato la propria zona SAR. Molti però discutono della effettiva realtà, perché la Libia non ha i mezzi per gestire questa zona SAR e, come dicevo, in moltissimi casi non ha neanche mostrato l'effettiva volontà di soccorrere i migranti in difficoltà. A tacere poi l'altro problema enorme della Libia, che la Libia, per le proprie condizioni, per le condizioni atroci dei centri dove vengono riportati i migranti, non può mai essere considerato un porto sicuro. Porto sicuro è il luogo in cui i soggetti soccorsi devono essere portati sempre secondo la convenzione SAR. Ecco, la Libia si discute appunto che possa davvero avere una zona SAR, in primo luogo perché non può costituire un porto sicuro. E questo credo che sia importante ricordarlo ogni volta che parliamo di queste vicende, ricordare agli ascoltatori che cosa sono i campi di detenzione in Libia, che sono davvero dei luoghi di inferno, di cui abbiamo centinaia, migliaia di testimonianze delle torture terribili che vengono praticate, e in molti casi la politica, spesso la politica italiana, sembra dimenticare che cos'è la Libia. Quando si parla di soggetti che non dovrebbero partire, di bloccare le partenze, significa affermare che vanno bloccati e lasciati all'inferno quelle migliaia di persone, e questo davvero credo che ogni giorno sia necessario ricordarlo. Con lei prima ha detto che l'Italia aveva il dovere giuridico. Che cosa comporta un mancato intervento? Il mancato intervento comporta, da un punto di vista della responsabilità dello Stato a livello internazionale, una responsabilità per avere non adempiuto i propri doveri. Poi c'è l'ulteriore profilo, non più la responsabilità dello Stato ma la responsabilità dei singoli attori, dei singoli ufficiali dello Stato, e questo è un problema del tutto aperto, quindi bisognerà poi vedere se ci saranno delle indagini, se qualcuno di coloro che erano coinvolti nella catena di comando dei soccorsi ha omesso il proprio dovere, e questo può portare a un rimprovero in sede penale. In questo momento è ancora difficile ipotizzarlo, ma questo è lo scenario, come ad esempio a Cutro, in cui la responsabilità gravissima dello Stato italiano per non aver fatto quanto doveva e poteva fare si potrà poi concretizzare in un procedimento penale nei confronti delle persone che concretamente hanno assunto le decisioni. Proprio su Cutro, ASGI e altre realtà hanno depositato un esposto per fare chiarezza, perché insomma le ricostruzioni che abbiamo visto anche da parte del governo non sono convincenti. Sì, assolutamente sì. Abbiamo pensato di presentare questo esposto collettivo, più di 40 associazioni l'hanno firmate, proprio perché volevamo dare un segnale forte, un segnale che in un caso come questo le responsabilità personali devono essere accertate. Non è possibile, non può più succedere quello che è successo in un'altra vicenda tragica e molto simile, che molti degli ascoltatori magari ricorderanno, la cosiddetta strage dei bambini bambini, quando nel 2013 una nave era affondata in acque internazionali ed erano morti più di 100 bambini. Ecco, in quel caso c'erano state delle gravissime inadempienze da parte della nostra Guardia Costiera, era stato fatto un processo e si è arrivati alla prescrizione, benché le responsabilità fossero state accertate. Una sentenza del Tribunale di Roma dice in modo molto netto, in questo caso i due soggetti che erano al vertice della struttura di comando erano penalmente responsabili, ma era passato troppo tempo e quindi il reato era estinto per prescrizione. Passato troppo tempo perché la procura non si era attivata in modo efficace e non erano state condotte delle indagini rapide ed efficienti. Ecco, la nostra presenza nel processo di Cutro vuole proprio essere un segnale. Questa, la prescrizione, cioè il disinteresse per l'accertamento della verità, non è più ammissibile e cercheremo di fare di tutto perché questo processo, queste indagini si facciano bene e si facciano in fretta.